Vabbè, vediamo di fare sta pagliacciata, va. Oh, pronto, senti me. Ascolta me, lo Zoo di 105, diffida dalle imitazioni, eh?